Capitolo 8. Fanny riprese a cavalcare fin dalla mattina seguente. E siccome il tempo era fresco e piacevole, invece che caldissimo come era stato ultimamente, Edmund confidò che quanto aveva perduto in fatto di salute e di svago sarebbe stato presto compensato. Mentre era fuori, arrivò Mr. Rushworth, che scortava la madre venuta in visita di cortesia e soprattutto per sollecitare l'attuazione della progettata visita a Southerton, cui si era accennato 15 giorni prima e che a motivo di una sua assenza da casa era poi rimasta lettera morta. Mrs. Norris e le nipoti furono lietissime di sentire che il progetto veniva riesumato. Fu proposta e alacremente accettata una data assai prossima, sempre che Mr. Crawford non avesse qualche impegno. Le signorine insistettero particolarmente su questo punto e benché Mrs. Norris prontamente si dichiarasse certa che sarebbe stato disponibile, non vollero autorizzare tale libertà né correre rischi. Alla fine, dietro al suggerimento di Miss Bertram, Mr. Rushworth trovò la soluzione più corretta. Sarebbe andato lui subito alla canonica a far visita a Mr. Crawford e gli avrebbe chiesto se il prossimo mercoledì gli andava bene o no. Prima del suo ritorno fecero la loro comparsa Mrs. Grant e Miss Crawford. Non avevano incontrato Mr. Rushworth perché erano uscite per tempo e avevano seguito un cammino diverso da quello preso da lui, ma si dichiararono certe che Mr. Crawford si trovava in casa e che il visitatore ce l'avrebbe trovato. Naturalmente si parlò della gita a Southerton, né era possibile trattare un altro argomento visto che Mrs. Norris era tutta eccitazione in proposito e che Mrs. Rushworth, donna bene intenzionata, complimentosa, prosaica e pomposa, che trovava interesse in ciò che si riferiva a se stessa o al figlio, continuava ad insistere affinché Lady Bertram facesse parte della comitiva. Lady Bertram declinava con pertinacia l'invito, ma il suo modo di rifiutare era così placido da convincere l'altra che si schermisse tanto per fare complimenti. Questo finché il fiume di parole di Mrs. Norris e il tono ben più risonante della sua voce non la convinsero di come stavano le cose. «Oh, la fatica sarebbe troppa per mia sorella, troppa davvero, glielo assicuro, cara Mrs. Rushworth. 10 miglia per arrivare da lei e poi 10 miglia per tornare qui, ci pensi? Lei deve scusare mia sorella per questa volta e accettare le nostre due care ragazze e me dispensando lei. Southerton è l'unico luogo che potrebbe ispirarle il desiderio di andare così lontano, ma non le è possibile, veramente». Sa, rimarrà qui in compagnia di Fanny Price, così tutto andrà benissimo. In quanto a Edmund, siccome non è qui per parlare in prima persona, rispondo io del grande piacere che proverà nell'unirsi alla nostra comitiva. Lui può venire a cavallo, sa? A Mrs. Rushworth, finalmente rassegnatasi al fatto che Lady Bertram rimanesse a casa, non restò che esprimere il proprio rammarico. Rinunciare alla compagnia di sua signoria era davvero assai spiacevole e poi sarebbe stata felicissima di vedere anche la signorina Miss Price, che ancora non era stata a Southerton ed era un vero peccato che non lo vedesse ora. «Oh, lei è molto gentile, è tutta gentilezza, mia cara signora», esclamò Mrs. Norris, «ma quanto a Fanny, avrà moltissime altre opportunità di vedere Southerton, ha abbastanza tempo dinanzi a sé. La sua venuta per questa volta è del tutto fuori discussione, Lady Bertram non potrebbe assolutamente fare senza di lei». «Oh no, non posso stare senza Fanny». Dopodiché Mrs. Rushworth, la quale era convinta che tutti dovessero nutrire il più ardente desiderio di vedere Southerton, passò a includere Miss Crawford nell'invito e benché Mrs. Grant, che quando era venuta a stabilirsi a Mansfield non si era presa il disturbo di andare a far visita a Mrs. Rushworth, declinasse nel più cortese dei modi l'invito che era stato rivolto anche a lei, fu lieta di vedere la sorella inclusa in quella gita. Mary, appropriatamente persuasa e sollecitata, non esitò troppo a lungo prima di accettare la cortesia di cui era oggetto. A questo punto, Mr. Rushworth tornò poco dopo dalla canonica annunciando di aver ottenuto pieno successo e, dopo poco, anche Edmund fece la sua comparsa appena in tempo per essere informato di quanto era stato stabilito per il mercoledì successivo, per accompagnare la sua carrozza a Mrs. Rushworth e poi scortare fino a metà strada dalla loro casa le altre due signore. Rientrando, trovò nella saletta della prima colazione Mrs. Norris che tentava di appurare se l'inclusione di Miss Crawford nella comitiva fosse desiderabile o no e se il calesse di suo fratello sarebbe o no al completo senza di lei. Le signorine Bertram la prendevano in giro per le sue preoccupazioni, facendo notare che il calesse poteva ospitare senz'altro quattro persone, senza tener conto del sedile a cassetta, dove una di loro poteva benissimo prendere posto accanto al guidatore. Ma perché, dice, disse Edmund, si dovrebbe fare uso della carrozza dei Crawford o solamente della sua? Perché non dovremmo prendere la carrozza di mia madre? Quando si è parlato per la prima volta del progetto, l'altra volta, non mi è riuscito di capire perché, per una visita fatta dalla nostra famiglia, non ci si debba servire della carrozza della nostra famiglia. Cosa? Esclamò Giulia. Chiuderci in tre in una berlina con questo caldo, mentre possiamo trovare posto in un calesse aperto? No, caro Edmund, la tua idea non regge. Inoltre, disse Maria, so che Mr. Crawford fa conto di portarci lui. Dopo quanto è stato detto in precedenza, gli deve considerare la cosa come una promessa. E poi, mio caro Edmund, aggiunse Mrs. Norris, far uscire due carrozze quando una può bastare sarebbe fatica sprecata. E sia detto fra noi, al cocchiere non piace granché il percorso da qui a Sotherton. Si lamenta sempre dei viottoli stretti tra siepi che gli graffiano la vettura e capisci bene che non può far piacere pensare che al suo ritorno il caro Sir Thomas trovi la vernice della carrozza tutta graffiata. Questo non sarebbe un motivo generoso per scegliere quella di Mr. Crawford al posto della nostra, disse Maria. La verità è che Wilcox è un vecchio stupido che non sa guidare. Vi garantisco che mercoledì non incontreremo inconvenienti dovuti alle strade troppo strette. Immagino che sedere a cassetta del calesse non sia scomodo e nemmeno spiacevole, disse Edmund. Spiacevole? Esclamò Maria. Oddio, penso che chiunque lo riterrebbe il posto migliore. Probabilmente Miss Crawford lo vorrà per sé. Dunque, nulla impedisce che Fanny venga con voi. È evidente che il posto per lei c'è. Fanny? Fece eco Mrs. Norris. Ma caro Edmund, Fanny non viene con noi, non se ne parla nemmeno. Lei rimane con la zia, l'ho detto a Mrs. Rushworth, a Sotherton non è aspettata. Immagino che lei non abbia uno speciale motivo, signora, disse Edmund rivolgendosi alla madre, per desiderare che Fanny non prenda parte alla gita se non per il desiderio di averla con sé. Se potesse fare a meno di lei, non vorrebbe trattenerla a casa, vero? No, certamente, ma non ne posso fare a meno. Lo potrà se rimango io a tenerle compagnia come effettivamente intendo fare. Le sue parole suscitarono le proteste generali. Sì, continuò Edmund. Non è affatto necessario che io vada, intendo restare a casa. Fanny ha un gran desiderio di vedere Sotherton. So che lo desidera moltissimo. Non ha spesso soddisfazioni del genere, sono certo, signora, che lei sarà lieta di procurarle questo piacere. Oh, sì, molto lieta, se tua zia non ha obiezioni. Mrs. Norris fu prontissima a valersi dell'unica obiezione che le rimaneva, il fatto di avere positivamente assicurato Mrs. Rushworth che Fanny non sarebbe andata da lei. Dopo questo sarebbe assai strano condurla con loro. La difficoltà le sembrava assolutamente insormontabile. La cosa sembrerebbe certamente strana, sarebbe una vera mancanza di riguardo al limite della maleducazione verso Mrs. Rushworth, i cui modi erano un paradigma di buona creanza e di cortesia, e lei, veramente, non si sentiva il coraggio di agire in simile modo. Di fatto Mrs. Norris non voleva bene a Fanny, non provava alcun desiderio di procurarle un piacere di qualsivoglia natura fosse. Ma l'attuale contrasto con Edmund, più che da qualsiasi altra considerazione, nasceva da una predilezione per il piano originale dovuta al fatto che era stata lei a concepirlo. Era certa di aver sistemato tutto per il meglio e che un qualsiasi cambiamento avrebbe guastato ogni cosa. Perciò, quando Edmund le spiegò, appena riuscì ad ottenere la sua attenzione, che non si doveva angustiare a proposito di Miss Rushworth, visto che quando lui aveva colto l'occasione, mentre la scortava attraverso l'atrio, di menzionare Miss Price come una probabile aggiunta alla comitiva, gli aveva immediatamente rinnovato l'invito per la cugina, Mrs. Norris, troppo irritata per sottomettersi con buona grazia, si limitò a dire: Benissimo, benissimo, come vuoi tu, sistema tutto a modo tuo, io me ne lavo le mani. Sembrerà molto strano, disse Maria, che tu te ne stia a casa al posto di Fanny. Davvero? Ti dovrebbe essere molto obbligata, aggiunse Giulia, e si affrettò a uscire dalla stanza per non dover offrire di rimanere a casa lei. Fanny sarà tanto grata quanto la cosa merita, fu tutto quanto Edmund rispose, e l'argomento fu lasciato cadere. La gratitudine di Fanny quando seppe del progetto fu senz'altro maggiore del piacere che le procurò la notizia. Recepì la gentilezza e la bontà di Edmund come una intensità di sentimenti che lui, che non ne sospettava il tenero attaccamento, non poteva certo immaginare. Che Edmund dovesse rinunciare per causa sua a una piacevole gita le diede pena, e poi tutto il piacere che si riprometteva dal vedere Sotherton si riduceva a ben poca cosa senza di lui. Quando le due famiglie si incontrarono nuovamente, fu proposta una nuova modifica, che venne accolta con generale soddisfazione. Mrs. Grant si offrì di tenere compagnia a Lady Bertram il giorno della gita, sostituendosi a Edmund. Il dottor Grant le avrebbe raggiunte all'ora di pranzo. Lady Bertram fu soddisfatissima di questa soluzione e le signorine ritrovarono tutta la loro letizia. Anche Edmund fu molto contento di quel cambiamento che gli consentiva di prendere parte alla gita e Mrs. Norris dichiarò che era un piano eccellente. Anzi, lei ne aveva la proposta sulla punta della lingua e stava per esporla proprio un secondo prima che Mrs. Grant ne parlasse. Giunse il mercoledì. Il tempo era bello. E subito dopo colazione arrivò il calesse con Mr. Crawford che lo guidava personalmente, conducendo le sorelle con sé. E siccome tutti erano pronti, Mrs. Grant scese dalla carrozza e gli altri si prepararono a salirvi. Il posto dei posti, il sedile invidiato, il posto d'onore, non era stato assegnato specificamente a nessuno. A chi sarebbe toccato quel premio ambito? Mentre ciascuna delle signorine Bertram pensavano al modo di assicurarselo, pur dando l'impressione di accettarlo solo per un riguardo verso gli altri, la cosa fu sistemata da Mrs. Grant che disse, mentre smontava: Beh, visto che siete in cinque, sarà meglio che una di voi sieda accanto ad Harry. E siccome ho sentito dire Giulia che le sarebbe piaciuto imparare a guidare, penso che questa sia una buona occasione per una prima lezione. Felice Giulia e infelice Maria. La prima si trovò seduta a cassetta in un lampo, la seconda prese posto all'interno, cupa e mortificata, e la carrozza partì, accompagnata dagli auguri delle due signore che restavano a casa e dai latrati di Pug stretto tra le braccia della sua padrona. La strada correva attraverso una campagna amena e Fanny, le cui passeggiate a cavallo non si erano mai spinte molto lontano, ben presto si trovò fuori dalla zona che le era familiare, pronta a osservare, tutta felice, quanto le era nuovo e ad ammirare ogni cosa bella. Non fu spesso invitata a unirsi nella conversazione delle sue compagne, ma da parte sua non desiderava farlo. Per lei la riflessione e il pensiero erano solitamente la miglior compagnia. Lo snodarsi della strada, le diversità del suolo, le condizioni del raccolto, le casette rustiche, le mandrie, i bambini, destavano in lei un interesse che solo la possibilità di comunicare a Edmund le sue impressioni avrebbe potuto accrescere. Quest'ultimo era il solo punto che Fanny avesse in comune con la giovane che le sedeva a fianco. In tutto, tranne che nell'interesse per Edmund, Miss Crawford era diversissima da lei. Non aveva nulla della delicatezza del suo gusto, della sua mente, dei suoi sentimenti. Posava sulla natura inanimata, uno sguardo superficiale. La sua attenzione andava tutta agli uomini e alle donne, in cui il suo talento si esercitava in tutto ciò che è brioso e leggero. Ma nel guardarsi indietro per cercare con gli occhi Edmund, quando vi era un lungo tratto di strada dritta, oppure quando egli le superava nel salire qualche erto pendio, il loro movimento era sincrono e più di una volta un'esclamazione «Eccolo!» uscì loro di bocca contemporaneamente. Durante le prime 7 miglia, Miss Bertram gustò pochissimo la gita. I suoi occhi finivano sempre col posarsi su Mr. Crawford e sulla sorella, seduti a fianco in fitta conversazione e piena allegria. E scorgere solo l'espressivo profilo di lui mentre volgeva il capo per sorridere a Giulia o udire la risata di lei le dava ogni volta un senso di irritazione che solo il rispetto delle convenienze riusciva a dominare. Giulia, quando si voltava verso di loro, mostrava un viso animato e felice e ogni qualvolta rivolgeva la parola alle compagne, lo faceva con grande allegria. Visto da lì, il paesaggio era incantevole. Avrebbe voluto che anch'esse potessero goderlo dalla sua posizione, eccetera, eccetera. Ma l'offerta di cambiare posto la fece solamente a Miss Crawford quando, giunti al termine di una lunga salita, disse piuttosto blandamente: Da qui si gode un bel panorama, vorrei che lei lo vedesse dal mio posto, ma ho l'impressione che che per quanto io insista lei non intende occuparlo. E prima ancora che Miss Crawford avesse tempo di rispondere, i cavalli erano già ripartiti al trotto. Quando però giunsero nella zona più direttamente legata a Sotherton e alle relative associazioni di idee, Miss Bertram si sentì maggiormente a suo agio. Aveva, per così dire, due corde al suo arco, il sentimento Rushworth e il sentimento Crawford, e in prossimità di Sotherton il primo prendeva decisamente il sopravvento. Non poteva dire a Miss Crawford: «Quei boschi dipendono da Sotherton», né aggiungere con fare indifferente: «Ora penso tutto ai due lati della strada appartiene a Mr. Rushworth», senza provare un senso di esultanza. E il suo piacere aumentava via via che si avvicinavano al maniero, antica residenza gentilizia di famiglia, con tutti i diritti e i privilegi annessi, fra cui quello di ospitare le riunioni del consiglio di registrazione presieduto dal signore, presenti i proprietari terrieri del distretto e l'assemblea dei mezzadri dipendenti dal maniero, presieduta dal proprietario o da chi per esso. Ora non incontreremo più strade cattive, Miss Crawford. Le nostre difficoltà sono finite. Il tratto che ci resta da percorrere è in perfetto ordine. Mr. Rushworth lo ha fatto sistemare quando, per diritto di maiorasco, è entrato in possesso della tenuta. Qui incomincia il villaggio. Queste casette rustiche sono una vera vergogna. Il campanile della chiesa è ritenuto veramente bello. Sono proprio contenta che la chiesa non sia troppo vicina al maniero, come accade molte volte nelle antiche proprietà. Il fastidio che danno le campane deve essere terribile. Oh, ecco la canonica, una casa dall'aspetto ben conservato, e mi dicono che il pastore e sua moglie sono persone molto a modo. Questi sono ospizi, fatti costruire in passato da non so che membro della famiglia. A destra c'è la casa dell'amministratore, un uomo molto rispettabile. Ecco, ora stiamo giungendo ai cancelli della portineria, ma ci rimane da percorrere ancora quasi un miglio attraverso il parco. Come vede, da questa parte il parco non si presenta male. Gli alberi forestali sono bellissimi, ma la posizione della casa è spaventosa. Per incontrarla si scende alla sua volta lungo un pendio di mezzo miglio, ed è un vero peccato che sia affossata, perché non sarebbe un brutto edificio se lo si avvicinasse in modo da averne una migliore prospettiva. Miss Crawford ammirò doverosamente ogni cosa, intuiva perfettamente i sentimenti di Miss Bertram e si faceva un punto d'onore di assecondarla al massimo. Mrs. Norris era tutta delizia e volubilità, e perfino Fanny ebbe occasione di esprimere la sua ammirazione e fu ascoltata con compiacimento. Beveva avidamente con gli occhi ogni cosa incontrata dal suo sguardo, e dopo essersi sforzata non poco per avere un'esatta prospettiva della casa e avere osservato che era quel tipo di edificio che non si può guardare senza provare rispetto, aggiunse: «Ma dov'è il viale? La casa, a quel che vedo, guarda a oriente, perciò il viale deve trovarsi sul retro. Mr. Rushworth parlava dell'ala ovest». «Sì, è esattamente dietro la casa. Ha inizio a non eccessiva distanza e sale per un mezzo miglio fino all'estremità del pendio. Da qui ne puoi vedere una parte, alcuni degli alberi più lontani. Sono tutte querce». Ora Miss Bertram, Maria, poteva parlare con piena competenza di quanto aveva dichiarato di ignorare totalmente giorni prima, quando Mr. Rushforth aveva sollecitato la sua opinione, e allorché la carrozza si fermò ai piedi degli ampi gradini di pietra che portavano all'ingresso principale. Il suo umore era improntato a tutta l'euforia che potevano darle la vanità e l'orgoglio soddisfatti.